di legno. Si sa ancora in testa, no, no, mi hanno preso. Ho messo la sesta, ci vediamo beso. Non parli di euro finché non ne senti il peso. Non sono per 20 pesos, ben inteso. Faccio questo, la musica, la mia spalla, il mio braccio destro. Per questo che resto a galla, sto viaggio perso. Le venne pure il Valhalla, sto fatto perso. M.M. il mixtape, è lato terzo. Mi succhiano ancora il cazzo, l'ha fatto spesso. Mi suonano ancora il clacson, gli asfalto il mezzo. So passo e sterzo, so 400, con sta merda ho fatto centro. Sta merda ho fatto centro. Non mi vedi come questi scemi omologati. Io non posto conto gli euro arrotolati. Se mi odio è perché sei fallito, scomparso. Vali zero fra, guarda il mio dito è un compasso. Io ho fatto un flow pazzo, tu hai fatto un flow pazzo. Chiedimi di fare a cambio col cazzo.